col sapore dell'olio di fegato di merluzzo, che era cattivissimo. Era cattivissimo nella storia di tutti. Devo dire che questa immagine dell'olio di fegato di merluzzo come ricostituente si dava, perché in effetti poi faceva bene, non è che desse tono, energia, però regolava e bilanciava una serie di elementi. Oggi in realtà dentro nell'olio di fegato di merluzzo possiamo ragionare e troviamo il buono e il cattivo, perché è vero che quello che poi la scienza man mano ci ha consentito di capire è che in realtà noi fornivamo ad una popolazione che mediamente non faceva granché uso di pesce, no? Tant'è che era obbligatorio il venerdì di magro, no? In cui mangiare pesce in un certo senso per cercare di aumentarne la componente, e i famosi omega 3 che invece sono fondamentali per riequilibrare una dominanza di alimentazione che passa sempre attraverso carne, formaggi, grassi vari, eccetera, no? Di cui l'olio di fegato di merluzzo è ricco, quindi è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra, perché questi omega 3 sono... Ma gli omega 3 sono fantastici, a parte che esistono anche in termini solo vegetali. Io vedo che oggi stiamo usando anche degli omega 3 vegetali come la perilla ed altro, però il pesce di per sé è una fonte naturale fantastica. Si sta scoprendo peraltro, questo lo dico perché non servono solo integratori di omega 3, proprio recentemente un bel lavoro ha spiegato che serve anche quello che c'è intorno al pesce. Io dico, quindi la verdura, l'allegria è un goccino di vino, proprio poco, no? In una perché situazione generale. Ci sta sentendo il professor Filipponi. Esatto, l'ho detto apposta. Ma poco vino fa bene. Perché Certo. Che renda il piacere delle cose, perché l'effetto positivo degli omega 3 è legato operativamente alla presenza di anche una serie di microelementi che possono giustificarne l'uso. Nel pesce intero c'è, negli omega 3 ce n'è meno, quindi sempre un'alimentazione variata. E poi però ci sono un mucchio di persone, chi ha il colesterolo alto, chi ha i trigliceridi alterati, chi ha delle patologie cardiovascolari, ha un beneficio assoluto dagli omega 3. L'unica controindicazione che merita di essere tenuta presente, persone che hanno già dei fenomeni di sanguinamento. Perché? Perché gli omega 3 tendono a fluidificare un po' il sangue, no? Quindi se uno già ha qualche problema da questo punto di vista è meglio che si metta in controllo. Però un dato, intanto nell'olio di fegato di merluzzo abbiamo anche della vitamina D3 naturale, spontanea, che è una delle cose che si sta maggiormente presentando come carenza, perché e non mangiare le uova, e non mangiare il burro, e non mangiare il latte, e togli qua, e togli là, e non usare gli oli, e la gente si trova senza vitamina D3. E poi sul gusto io vorrei spendere una parola, se posso. Ma deve. Ma assolutamente, è vero che di per sé l'olio di fegato di merluzzo non è buono, però se noi prendiamo dell'olio di fegato di merluzzo e lo usiamo insieme del sano olio di oliva per condire un'insalata fatta con i gamberetti del tonno, ma quanta gente va a mangiare il tonno nell'insalatona? Il tonno saprà mica di carne, il tonno, no? Sa di pesce. Quindi un po' lei di... ci assicura che mescolandoli non si... Guardi che io provo, perché io provo tutte le cose che mi dite. Assolutamente, un po' di olio di fegato di merluzzo spulito, cioè che sia purificato e non abbia metalli pesanti, mischiato con un po' di olio di oliva o di altro seme, insieme ad una insalata con foglie abbondanti, con verdure varie e con un po' di pesce, di gamberetti, ecco che l'olio di fegato di merluzzo perde il suo gusto strano e diventa buono. Dottor Speciani, io provo, se non è buona vengo a prenderla. Va bene, grazie dottor Speciani per essere stato con noi. A presto.